Radio 24 Reportage. Vega, l'ora del conto alla rovescia, di Gigi Donelli. Io sono Antonio Fabrizi, direttore dei lanciatori all'Agenzia Spaziale Europea. Ingegner Fabrizi, qua siamo, innanzitutto abbiamo a sinistra il Centre Jupiter, a destra un Ariane 5, una torre di fatto di qualche decina di metri, io non lo so, sì, ma lei saprà, cinquantina di metri, che è di fatto il più grande razzo europeo, è il fratello maggiore. Con Ariane 5 portiamo grandi satelliti di telecomunicazione a un'orbita che è a 36.000 km dalla Terra, quindi piuttosto lontana. Ci sono altre applicazioni che sono di interesse nella vita di oggi e sono le osservazioni della Terra, e quindi parliamo di tutto ciò che serve per monitorare l'ambiente, ma anche satelliti di navigazione come Galileo, altri satelliti scientifici. Questi satelliti in genere operano su orbite più basse, più vicine alla Terra, e quindi abbiamo bisogno di lanciatori più piccoli. È per questo che la gamma europea si è completata con un lanciatore medio, che è il russo Soyuz, per cui abbiamo costruito una base qui in Guyana, e con il piccolo Vega, di cui faremo il lancio a breve, che ha una capacità di 1,5 tonnellate in orbita bassa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. 19 stati membri, 4 miliardi di euro di budget annuale per l'Agenzia Spaziale Europea. Kourou, il grande porto spaziale dell'Europa in America del Sud. Un investimento per il solo Vega di 700 milioni di euro, sostenuti in gran parte dall'Italia. E poi tutto si concentra proprio qui, in Guyana, la base europea che da sola costa 120 milioni di euro ogni anno. Un terzo è sostenuto dalla Francia, due terzi dall'ESA, dunque da tutte le nazioni che partecipano allo sforzo spaziale europeo. Uno dei momenti più critici è sicuramente il volo del primo stadio, perché il volo atmosferico è particolarmente critico, perché quello che tecnicamente si chiama pressione dinamica è molto elevata. Quindi voi dovete immaginare il lanciatore è un elemento altamente instabile che raggiunge delle velocità altissime in pochi secondi. Quindi in 20 secondi siamo già a 720 km all'ora. 10 anni di lavoro in 107 secondi. Il primo stadio si brucia interamente per strappare il razzo alla gravità terrestre. Il piccolo Vega, il nuovo lanciatore, è in realtà alto 10 piani, e perché tutto vada bene, dopo 20 secondi deve correre a 700 km l'ora. Perché questo succeda, bisogna fare il pieno di combustibile, un combustibile che viene costruito proprio qui in una fabbrica in mezzo alla foresta, come ci spiega l'ingegner Fontana della società Regulus. Qui facciamo la prima fase di preparazione del propellente, significa che in questo bâtiment praticamente mescoliamo il polimero con l'alluminio. L'alluminio, vi ricordo, è il combustibile, il polimero è quello che tiene insieme il combustibile e il comburente. Il comburente, vi ricordo, è il perclorato d'ammonio, quello che porta l'ossigeno. Stiamo andando al malaxer, mixer in italiano e in francese. Al malaxer che cosa arriva? Arriva il propellente in fase liquida con l'alluminio dentro, e lì ci mettiamo il perclorato d'ammonio, che è la fase più critica questa, perché mettiamo insieme il comburente e il combustibile. Allora capite che in questa fase manca il terzo ingrediente per fare la combustione, che è la scintilla. Quindi in questa fase le misure di sicurezza sono al top. Un incidente in questa fase sarebbe catastrofico. Ripeto, arriva il propellente in fase liquida e viene aggiunto il perclorato d'ammonio. E poi si comincia a mischiare. Si mischia sotto vuoto e in certe condizioni di temperatura. Se facciamo tutto a temperatura ambiente, anche se siamo in Guyana a 30 gradi, e il propellente comincia a reticolare, quindi diventa duro, e a quel punto non lo coleremo più. Quindi temperatura, non vi do i dettagli perché è segreto industriale, ma calcolare intorno ai 60-70 gradi. Buongiorno. Signori, buongiorno, ben arrivati. Grazie. Sta al fresco qui. Qui sì. Beh, qui non ci possiamo permettere l'ambiente, quello che dicevo temperatura, prima. Leggevo prima 23. La temperatura siamo intorno ai 23 gradi e l'umidità siamo intorno al 30%. Mentre che appena fuori, visto che siamo in Guyana, l'umidità là, sale adesso a questo momento dovremmo essere a 30-31 gradi, l'umidità siamo intorno all'80%, 85%, dipende, anche più a volte. Allora, nel momento in cui dentro questa cuva, questo recipiente, diciamo, c'è il propellente nella fase liquida, ma con il combustibile dentro, ovviamente la cuva viene sollevata fino su, va battuta dove vedete, e le pale entrano in funzione. Quindi cominciano a ruotare a una velocità molto lenta, siamo dell'ordine ai 3-4 giri al minuto, e questo per rendere massima l'omogenizzazione della pasta che è dentro. Allora, se dico pasta potete pensare quello che volete, il nome ufficiale, però è molto simile a quello che già tutti immaginate, no? A qualcosa, una stessa metodologia, metodi di fabbricazione che si usano in altre industrie. È lo stesso principio, quindi qui c'è una pasta di propellente molto, diciamo, abbastanza viscosa. Qui ci sono circa 11 tonnellate di propellente, quindi 10 volte fa 110 tonnellate di propellente, che è quello che ci serve per fare un S2 o un S3 per Ariane 5, oppure le 90 tonnellate per il Vega. Stefano Bianchi, program manager di Vega. All'Agenzia Spaziale Europea sono responsabile di tutto il programma, quindi dello sviluppo del lanciatore, dello sviluppo del ground segment, dell'inizio dell'exploitation di Vega con i primi 5 lanci, e quindi responsabile all'ESA vuol dire responsabile dei contatti con i paesi membri, dei contratti industriali, della verifica tecnica, insomma di tutto il programma. Il lanciatore è un elemento altamente instabile che raggiunge delle velocità altissime in pochi secondi, quindi in 20 secondi siamo già a 720 km all'ora. In fase atmosferica c'è anche la pressione generata dalla velocità nell'aria, che quindi crea una quantità di carichi che sollecitano i materiali, una velocità di intervento del sistema di controllo, per cui diciamo tutto è sovraeccitato in questa fase. Quindi la fase del primo stadio, che dura 107 secondi, che vi assicuro saranno eterni, fino alla separazione del primo stadio, è diciamo la fase più critica. Poi dopodiché, vuol dire, c'è sempre il secondo, il terzo stadio, comunque diciamo la fase propulsiva con i tre solid booster è in ogni caso in assoluto la più critica, e in particolare lo è quella del primo stadio. 10, 9, 8, 7. Beh, bellissimo essere arrivati al momento del lancio. Devo dire che è una grandissima soddisfazione aver portato tutti questi ragazzi a riuscire a lavorare in un progetto così bello, perché penso che sia in ogni caso una cosa che tutti si ricorderanno per sempre, perché è un lavoro che può essere fatto soltanto con un grande spirito di equipe, che può essere fatto soltanto insieme, con grandissima competenza e grandissima attenzione. Quindi per me è un'esperienza unica, e devo dire è straordinario che l'Europa permetta di fare queste cose, che ci sia ancora la volontà di investire in imprese europee per portare avanti questi grandi progetti che uno Stato da solo non potrà mai fare. Quindi è necessario continuare e pensare lontano per poter cominciare questi progetti. Sono progetti che non, per cui bisogna avere una visione da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, quindi è importante avere questa visione, perché poi il risultato arriva, anche se arriva 9 anni dopo, ci sono generazioni di ingegneri che ne beneficeranno per anni. Attention pour le décompte final. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.